In primo piano. Buona giornata da Mauro Meazza, benvenuti alla rassegna stampa di Radio 24 e buona giornata naturalmente a tutti voi, ma anche a Carmelo Lauricella questa mattina in regia per consentire la messa in onda di questo programma. Allora, come avete potuto ascoltare già nel giornale radio, tiene banco assolutamente sui quotidiani, sulle prime pagine dei quotidiani, il buon dato a sorpresa del prodotto interno lordo. Insomma, l'Italia nel secondo trimestre, la produzione italiana è andata meglio di quanto si pensasse. Questo è il senso anche del titolo del Sole 24 Ore, il nostro titolo più importante: il PIL a sorpresa cresce dell'1,5%. Adesso naturalmente c'è da capire cosa fare di questo dato positivo, che si aspetta venga confermato anche nel terzo e quarto trimestre dell'anno, e quindi come orientare eventuali maggiori flessibilità. Su questo si interrogano un po' tutti i quotidiani, si azzardano anche delle ipotesi anche sulla base di questioni che erano già emerse nelle scorse settimane, le avevamo riportate sul Sole 24 Ore, cioè l'idea di intervenire con sgravi contributivi molto importanti, specialmente per sostenere l'occupazione giovanile, è una delle ipotesi. E poi ci sono gli interventi per sollecitare gli investimenti o per continuare le sollecitazioni agli investimenti da parte delle imprese. In primo piano naturalmente anche la vicenda che riguarda Giulio Regeni, un po' su tutti i giornali, naturalmente con accenti anche diversi a seconda della linea editoriale del quotidiano preso in considerazione. È il titolo più importante, ad esempio più visibile, per quanto riguarda la Repubblica: Regeni, scontro sulle rivelazioni USA e il governo, la replica governativa che è stata subito notizie generiche e mai carte. Il tutto parte, lo avete ascoltato anche di recente, ma sul punto poi vi segnalo anche la bella puntata di ieri di Nessun Luogo è Lontano, che potete riascoltare in podcast se andate sul nostro sito Radio 24, www.radio24.it. Nessun Luogo è Lontano ha condotto una puntata di approfondimento proprio alla vicenda Regeni, cercando di entrare nel dettaglio. Chiaramente la vicenda, queste rivelazioni del New York Times che accusano il fatto che il governo italiano fosse stato informato, il governo smentisce, non ci sono mai state date delle carte, delle indicazioni concrete. Ebbene, questo si presta, come si può facilmente immaginare, anche alle polemiche politiche. Del resto, insomma, è Ferragosto, poi l'anno prossimo si va a votare, perché lasciarsi sfuggire anche un'occasione così ghiotta? Intanto pensiamoci. Traffico! Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta In primo piano. Buongiorno e bentornati, ancora buongiorno da Mauro Meazza, bentornati alla lettura dei giornali. Come vi dicevo, la notizia del buon andamento del prodotto interno lordo nel secondo trimestre di quest'anno e le rivelazioni del New York Times, con lo strascico di polemiche, la replica del nostro governo sul caso Regeni, sono gli argomenti ovviamente più in vista, comprensibilmente più in vista sui quotidiani di oggi. Altrettanto comprensibilmente, questo argomento di Regeni viene poi declinato con accenti diversi a seconda delle linee editoriali. Il Fatto Quotidiano ha un titolo decisamente polemico: Regeni, silenzio di tomba. Il New York Times dice: Obama passò a Roma le prove su Al-Sisi, e addirittura quattro domande in totale in realtà sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Cosa ha rivelato la Casa Bianca a Palazzo Chigi sui responsabili dell'omicidio? Perché il governo Renzi decise di ignorare quelle informazioni? E in che senso le definisce non prove di fatto né esplosive? Inoltre, quale ruolo hanno avuto i nostri servizi, che rispondono direttamente al Premier? Ed è vero che l'intelligence e l'ENI temevano la rottura col regime egiziano e che ci furono forti attriti con la Farnesina? Il caso Regeni, insomma, non è solo una vicenda con tuttora dei lati oscuri sulla morte di questo ragazzo, di questo giovane ricercatore, ma anche con uno sfondo di tensioni internazionali alle quali addirittura non sarebbe alieno anche questa pubblicazione, non sarebbe aliena neanche questa pubblicazione del New York Times, secondo quello che sostiene qualche politico sui giornali di oggi. Allora, se vi siete un pochino perduti nella vicenda Regeni, oltre alla possibilità di ascoltare in podcast Nessun Luogo è Lontano, la puntata di ieri proprio dedicata alla vicenda Regeni, vi segnalo da Repubblica una pagina, la pagina 4, dove potete trovare in due colonne quello che sappiamo effettivamente su questa vicenda, cioè sappiamo che i servizi egiziani indagarono effettivamente su quello che stava facendo Regeni, sappiamo che è vittima di apparati, genericamente possiamo definirli così, del regime, e sappiamo anche che il governo egiziano ha inizialmente negato qualsiasi coinvolgimento. Queste sono tra le cose che sappiamo. Ma cosa non sappiamo lo riassume ancora Repubblica, ed è quello che vorremmo sapere, e quello che poi sta anche, come avete sentito, come avete seguito in questi giorni, sta anche sollevando le polemiche e l'indignazione della famiglia di Giulio, che critica la decisione di Roma di inviare di nuovo il nostro ambasciatore al Cairo. Ecco, non sappiamo perché Giulio Regeni è stato ucciso, e che poi è la domanda forse più importante accanto all'altra: chi poi ha dato materialmente l'ordine di ucciderlo. Poi ci sono altri perché che sconfinano magari un pochino nello scenario internazionale fatto di rapporti tra l'Egitto, l'Italia e gli altri paesi del Mediterraneo, gli Stati Uniti, gli interessi economici italiani, americani e gli altri ancora in Egitto e così via, e quindi perché è stato fatto ritrovare il corpo, perché è stato fatto ritrovare proprio in occasione di una visita che era dedicata a iniziative commerciali e industriali, di partnership industriali tra Italia ed Egitto. Cosa ci dicono le telecamere? Qual è il vero ruolo dell'Università di Cambridge? Sono tra le cose che non sappiamo. Questo riassunto l'ho preso, come vi dicevo, da Repubblica, in una giornata come potete immaginare in cui facilmente si mescolano i dati di fatto con le prese di posizione di tipo politico, le richieste di riapertura delle camere, di riferimento immediato da parte del governo in Parlamento. Ebbene, un'utile traccia per riprendere le fila della vicenda Regeni è questa che ci offre Repubblica. Così come mi permetto di consigliarvi, se me lo consentite, il commento di Alberto Negri, il nostro collega Alberto Negri del Sole 24 Ore, che appunto dice soliti sospetti, questo è il titolo, La Stampa e il mondo dei vinti. Ecco, in questo commento scrive Alberto Negri sul Sole 24 Ore di oggi: ci sono morti che nessuno vuole avere sulla coscienza, ma il cui cadavere deve essere rapidamente sepolto per passare ad altro. Giulio Regeni è uno di questi, ma dopo oltre un anno non hanno ancora trovato una lapide convincente. E poi nel prosieguo appunto di questo articolo Alberto Negri riesce, secondo me, molto chiaramente a inquadrare la vicenda di Giulio Regeni, l'assassinio di Giulio Regeni, con anche le tensioni internazionali, ripartendo da ultimo, solo credo anche l'abbia fatto per poter stare nel rigaggio consentito, ripartendo da ultimo dalle vicende del bombardamento della Libia nel 2011 e la destituzione di Gheddafi dalla Libia, perché anche questo c'entra con la vicenda Regeni. Vi rimando al Sole 24 Ore di oggi al commento di Alberto Negri appunto su questo caso Regeni. Veniamo allora, restando sul Sole 24 Ore, alle questioni economiche. Il prodotto interno lordo, l'avete sentito, cresce in più di quello che ci si aspettava, ma cresce meno degli altri paesi europei. Allora, la buona e la cattiva notizia, il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, se volete. Vediamo che cosa scrive Davide Colombo sul Sole 24 Ore di oggi. Allora, l'accelerazione del prodotto interno lordo, che è poi appunto, lo sapete, l'insieme della capacità produttiva dello Stato, l'accelerazione sul tendenziale è significativa perché c'è un 0,3 in più rispetto ai valori del primo trimestre e il dato è il più alto, ci ricorda Davide Colombo, registrato da 6 anni. Per trovare un valore maggiore bisogna infatti tornare al primo trimestre del 2011, quando l'incremento era stato del 2,1%. Poi la variazione già acquisita, già confermata del prodotto interno lordo è 1,2. Quindi fanno in totale a questo momento 10 trimestri consecutivi di crescita, di cui gli ultimi 3 con un aumento dello 0,4%. Sono complessivamente buone notizie, sono buoni indicatori, stanno a dirci che l'economia ha ripreso. Che cosa ha consentito questa ripresa? Che naturalmente mi aspetto subito anche i vostri messaggi, anche critici, al solito abituale numero 349-238-6666, funziona sia come SMS sia come WhatsApp, è il modo più diretto se volete mettervi in contatto con noi. Dicevo, perché mi aspetto delle critiche, perché ovviamente non è che la ripresa venga percepita allo stesso modo in tutte le parti del paese, in tutti i settori del paese. Ci sono delle parti dell'economia e delle nostre attività che vanno meglio, che hanno più sollievo, e delle altre che ne hanno meno. Ricorda ad esempio Luca Orlando, proprio sul Sole 24 Ore di oggi, è stato decisivo lo scatto dell'industria, perché anche grazie alle politiche di incentivazione per i nuovi investimenti e soprattutto al buon andamento delle esportazioni, l'indice appunto manifatturiero è arrivato più in alto di quello che ci si aspettava, mentre per l'agricoltura ad esempio, il settore primario ugualmente, ricorda Anna Maria Capparelli che c'è un calo minimo, ma pur sempre un calo, un segno negativo. Quindi non tutto, già da questo sguardo d'insieme molto macroeconomico si comprende come la ripresa agisca in una parte più e meno altrove, prendendo a prestito le parole del sommo poeta. Ma poi soprattutto passando su Repubblica, Marco Patucchi ci ricorda che è ancora una ripresa senza lavoro, cioè con dati sull'occupazione che restano peggiori rispetto ai nostri partner europei di riferimento. E allora scrive Patucchi: tirano sì industria e turismo, ma la crescita ancora non significa più impiego. Già devo dire, negli anni passati qualche esperto, qualche economista aveva pronosticato quella che, con un termine inglese, forse per pudore, chiamavamo jobless recovery, cioè ripresa senza però ripresa occupazionale. È quello che stiamo effettivamente vedendo per quanto riguarda in particolare il nostro paese. Ci ricorda infatti Patucchi che questa crescita è rappresentata plasticamente sempre nei dati Istat. Il tasso di disoccupazione registrato a giugno è stato 11,1%. Ed è effettivamente il più basso degli ultimi 5 anni, ma nella media dei paesi che hanno l'euro questo stesso valore è 9,1%, quindi sta 2 punti percentuali sotto. E poi naturalmente, per non parlare, ma parliamone perché no, del tasso di disoccupazione giovanile, che nel nostro paese sfonda abbondantemente quota 35%. E allora questo serve a individuare anche delle possibili aree di intervento per questo buon andamento del prodotto interno lordo, che dovrebbe consentirci anche una maggiore disponibilità di risorse per quanto riguarda la prossima manovra, quella che si dovrà varare da partire dall'autunno e che dovrà guidare i conti dello Stato per il 2018 e i 2 anni successivi. Si è parlato, ve lo ricordavo già in apertura, di intervenire con robuste misure di sostegno per l'occupazione, in particolare dei più giovani. Ecco, questo dato che ci viene da Repubblica, ci viene ricordato da Repubblica oggi, ci segnala proprio come sia urgente intervenire in questa direzione. Passo ad altro, ma sempre restando in tema economico con il titolo del giornale La Germania ci vuole falliti, nuovo ricorso contro il quantitative easing di Draghi che ci tiene a galla. Che, allora, che è successo nel giorno di Ferragosto? Che la Corte di Karlsruhe ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea, quindi i tedeschi, i giudici tedeschi chiedono agli euro giudici se il procedimento di sostegno all'economia che ha avviato e sta tuttora portando avanti la Banca Centrale Europea sia legittimo, invece non rappresenti un aiuto di Stato. Ecco, ma che tipo di effetto potrebbe avere? Lo ricorda anche il Sole 24 Ore di oggi con un breve trafiletto. In realtà dal punto di vista operativo questa iniziativa non ha grande grandi prospettive di successo e neanche poi di efficacia, ma soprattutto il dato più importante è che lo stesso ministro delle finanze tedesco Schäuble, che come sapete non è mai stato particolarmente tenero e disponibile nei confronti di sforamenti del deficit piuttosto che di sostegni in particolare al nostro paese ma anche ad altri paesi dell'area euro, Schäuble è considerato insomma sinteticamente un falco, ha invece difeso Draghi sul quantitative easing, cioè su questa politica di sostegno della Banca Centrale Europea, dicendo chiaramente: non condivido la decisione la Corte Costituzionale tedesca che ha deciso appunto di ricorrere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Peraltro, come ricordiamo proprio oggi a pagina 4 del Sole 24 Ore, di questo programma di quantitative easing che avviene sostanzialmente per sostenere l'economia acquistando titoli dei vari paesi, titoli di Stato dei vari paesi sul mercato da parte della Banca Centrale Europea, peraltro dicevo Berlino è proprio il primo beneficiario di questa politica, cioè poiché si ragiona in termini di capitali, ci segnala Maximilian Cellino, grazie al programma di quantitative easing sono stati acquistati 400 miliardi di bond tedeschi e quindi di Bund, questo è il termine più corretto, potrebbero poi terminare a giugno, però insomma diciamo che della politica che viene messa sotto accusa, sotto il faro da parte della Corte Costituzionale tedesca, ecco, Berlino è proprio colei che se n'è giovata di più. Bisogna poi sempre ricordare che siamo in una fase elettorale anche in Germania e quindi molti aspetti finiscono fatalmente per prendere una coloritura elettorale. Ora ci fermiamo qualche istante per un pochino di pubblicità, tra pochissimo. In primo piano. Bentornati alla nostra rassegna stampa, bentornati da Mauro Meazza e bentornati anche da Carmelo Lauricella, che ringrazio, che è oggi in regia. Poiché in diversi ascoltatori ci scrivono al 349-238-6666, è il numero per messaggi sms whatsapp, mi chiedono: ma non c'è Giulia Crivelli? No, Giulia Crivelli ha preso qualche giorno di ferie, le abbiamo concesso qualche giorno di ferie. Poi altri chiedono invece: ma quando torna Alessandro Milan? Alessandro Milan tornerà il 4 di settembre, non sto rivelando nessun segreto di Stato, è una notizia che è stata divulgata con il nuovo palinsesto che partirà da settembre e vi posso anche dire Alessandro Milan avrà una trasmissione che comincerà alle ore 9, questo per accontentare gli ascoltatori che ci scrivono e li ringrazio dell'affetto e della vicinanza appunto alla Radio 24 e lo stato dei conduttori, dei vari conduttori che si alternano ai microfoni. Torniamo sui giornali, il Messaggero: cresce il PIL, manovra più leggera, è il titolo più importante, ma naturalmente grande fotonotizia e titolo molto evidente per la vicenda di cronaca che avete ascoltato anche nel corso del giornale radio in precedenza, perché questo ritrovamento appunto di due gambe di donna in un cassonetto dei rifiuti che poi ha portato all'arresto del responsabile. Orrore a Roma, confessa il fratello, fatta a pezzi, mi dava pochi soldi. È una vicenda diciamo molto triste e molto macabra, ovviamente, per questo tipo di dettagli che ci sono stati, e che il Messaggero, essendo vicenda romana, il quotidiano di Roma, affronta con molta attenzione. La donna aveva 59 anni, il suo assassino, il fratello, 58. Il corpo è stato nascosto nei cassonetti, dopo però è stato fatto a pezzi, appunto, chiedo scusa, per consentire di poterlo smaltire, in questa illusione forse di essere poi non scoperto, di non essere scoperto. Oh, ma dal Messaggero invece traggo proprio dalla prima pagina una cosa che fa piacere ai giornali, fa piacere vedere che le denunce riportate sui giornali poi servono a qualcosa. Svolta sul terremoto, tasse azzerate per tutte le imprese. Dopo la denuncia di Pirozzi al Messaggero, il Ministero del Sviluppo Economico corregge, l'esenzione vale in tutto il cratere. Le imprese, scrive Mauro Evangelisti già in prima pagina, danneggiate dal terremoto saranno esentate da tasse e contributi per 2 anni, al 100%. Alla fine la battaglia del sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi è stata vinta, conferma Vasco Errani, il problema è stato risolto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato e confermato ciò che abbiamo sempre sostenuto. E allora, nelle pagine interne del Messaggero, terremoto, tasse azzerate, sì del governo alle imprese, dopo la denuncia del sindaco Pirozzi, gli aiuti a chi ha subito un calo del fatturato, e il Ministero che conferma esenzione da imposte e contributi per 2 anni. Allora, per chi si fosse perso questi passaggi fondamentali, che è successo domenica? Il sindaco aveva denunciato appunto che c'era una interpretazione, un'applicazione restrittiva delle misure di aiuto per i comuni e le attività economiche colpite dal terremoto di ormai un anno fa, iniziato ormai un anno fa. Erano seguiti scambi di precisazioni, il ministero aveva detto beh, ma non è colpa nostra, noi abbiamo scritto una circolare perché la legge, in questo caso si tratta della manovra ultima varata, il decreto legge 50, quella cosiddetta manovra di primavera che ci ha chiesto l'Unione Europea, come ricorderete, per riportare in ordine i conti. La legge dice così, ha spiegato il ministero, ne sono seguiti un po' di palleggiamenti, poi c'è stata la visita nelle zone terremotate da parte del Presidente del Consiglio, che ha manifestato una disponibilità a rivedere l'impianto. E allora adesso a questo il punto è che secondo quello che conferma Errani proprio a Mauro Evangelisti sul Messaggero di oggi, il problema è stato risolto, il Ministero ha precisato e confermato che fino al de minimis è la quota massima a cui si può ricorrere come aiuti senza dover chiedere l'autorizzazione della comunità, della Unione Europea. Questo significa il regime del de minimis. Fino al de minimis per il 2017 e per il 2018 ci sarà l'esenzione per le imprese che hanno avuto un calo del fatturato. Questo principio, riferisce Vasco Errani, questo principio, dice il ministro Calenda, sarà integrato nel punto 10 della circolare. Quindi una integrazione, una correzione alla circolare, ma anche si capisce una lettura diciamo più comprensiva, per dir così, del dettato della legge, di modo che non ci siano dubbi e gli aiuti siano più consistenti. Questo per la vicenda appunto dei terremotati, dopo la denuncia del sindaco di Amatrice, che aveva detto al Messaggero che questi aiuti non erano quello che era stato promesso inizialmente alle popolazioni colpite dal terremoto. Ritorno sul caso Regeni proprio dal Messaggero, perché un retroscena firmato da Sara Menafra ci informa che questo ritorno dell'ambasciatore al Cairo sarà collegato alla presenza di un PM, di un giudice, di un magistrato in ambasciata per seguire l'inchiesta su Giulio Regeni. Nella lettera di incarico a Cantini, riferisce appunto il Messaggero, c'è l'istituzione di un delegato ad hoc e poi non ripartirà il forum tra le imprese, resterà l'allerta sui diritti umani. Quindi diciamo che le relazioni diplomatiche e commerciali tra Italia ed Egitto, pur con il rientro dell'ambasciatore, restano improntate a una certa diffidenza. Incarichi precisi, si legge in questo articolo di Sara Mainafra sul Messaggero, alcuni dei quali direttamente collegati all'impegno nel chiarire definitivamente chi e perché abbia ucciso Giulio Regeni, ma soprattutto la presenza di un incaricato giudiziario, questo il termine un po' generico con cui viene indicata la presenza di un magistrato, e infatti così spiega Sara Mainafra, quasi certamente un magistrato o un ufficiale di polizia giudiziaria che avrà lo specifico compito di mantenere i contatti con la Procura di Roma sugli sviluppi dell'inchiesta e fornire all'ambasciatore indicazioni sulle forme di pressione politica da esercitare, vincolando il prossimo inviato italiano al Cairo, Giampaolo Cantini, a obiettivi precisi, buona parte dei quali legati proprio alla scoperta delle ragioni della morte del ricercatore italiano. Questo sul Messaggero, nel retroscena firmato da Sara Mainafra. Il Corriere della Sera riporta ovviamente in grande evidenza il prodotto interno lordo che cresce più del previsto, ma anche come titolo più alto nella prima pagina vedrete le rivelazioni dagli USA sul caso Regeni, il governo frena ma è scontro politico. Poi invece dal Corriere della Sera la fotonotizia, come si chiama nel nostro gergo, cioè la grande foto centrale che occupa sempre, che si trova spesso in prima pagina, è dedicata a questa denuncia di questa ragazza Anita Fallani che parla della paura di sera di noi ragazze, è stata inseguita e importunata sul tram, scende anche lui, la paura, la voglia di piangere, i passi, il respiro che si fa sempre più veloce fino all'arrivo a casa con una domanda: per quanto ancora dovremmo dirci fortunate se non ci violentano? Questa vicenda, questa denuncia che è stata messa su Facebook da questa ragazza, che è poi la figlia del vice sindaco di Scandicci, viene anche collegata su Repubblica a un'altra vicenda di una ragazza che sempre grazie ai social ha spiegato come sia stata esclusa da un concorso canoro perché è una ragazza ghanese, anche se ha la cittadinanza italiana, cioè di origini ghanesi anche se ha la cittadinanza italiana. Secondo appunto l'organizzatore del concorso non è abbastanza italiana pur essendo cittadina italiana. Le due storie, la storia di Dora, questa la ragazza esclusa dal concorso canoro, e la storia di Anita, una a Verona, Dora, l'altra a Scandicci, Anita, sono affiancate in una pagina di oggi su Repubblica con il titolo Le ragazze coraggio. L'una dice: sfido i razzisti, non mi rovineranno il sogno di cantare. È stata rifiutata appunto sostanzialmente perché è nera, detto proprio brutalmente e banalmente. La ragazza ha postato la denuncia su Facebook e ovviamente sono scattate giustamente in questo caso le polemiche. Tra l'altro, appunto, ripeto, è una cittadina italiana, cioè ha cittadinanza italiana, quindi non si capisce bene se non per un pregiudizio davvero arcaico la sua esclusione. E l'altra invece è Anita: basta molestie, rivendico la libertà di tornare a casa da sola, perché è stata appunto inseguita e molestata da un uomo al rientro a casa e si è sfogata anche lei su Facebook dicendo: ma perché devo avere paura quando torno a casa di notte? Allora, due ragazze coraggio, una che va contro i pregiudizi, l'altra che combatte per non avere paura a spostarsi in tram di notte, entrambe non vogliono stare zitte. Questo è il motivo per cui Repubblica oggi affianca le due le due storie appunto emerse grazie al social network. Oh, chiedo scusa, ho detto che Anita è la figlia del vice sindaco, ma in realtà è la figlia del sindaco di Scandicci, una imprecisione di cui mi scuso, che così riferisce anche Repubblica correttamente nella sua didascalia. Vi segnalo gli ulteriori sviluppi poi sull'inchiesta Consip. Qualcuno degli ascoltatori forse si sarà anche perduto oramai. Allora, Consip, cioè la questione dei presunti, perché ancora stiamo con le indagini in corso, presunte alterazioni, fenomeni di corruzione per quanto riguarda gli acquisti della pubblica amministrazione, che hanno portato prima in carcere, poi ai arresti domiciliari, l'imprenditore Alfredo Romeo. Ebbene, Alfredo Romeo è stato liberato, il carcere non era giustificato, il Tribunale del Riesame, adeguandosi a quanto ha detto la Cassazione, la Corte di Cassazione, accogliendo appunto una richiesta dei legali di Romeo, ha detto che non c'è motivo per cui ci debba essere una misura restrittiva della libertà personale per Alfredo Romeo. Il Riesame annulla anche i domiciliari, leggo da Repubblica, ma la notizia sta un po' su tutti i giornali, che erano seguiti questi domiciliari all'arresto di marzo. Gli avvocati dicono: crolla il castello di carte. Questa battuta appunto degli avvocati si riferisce al fatto che questa sentenza, questa decisione della Cassazione sulla carcere e sugli arresti domiciliari di Romeo aveva poi anche criticato l'utilizzo delle intercettazioni con un sistema che era stato giudicato particolarmente invasivo, un sistema che consiste nel giovarsi nell'utilizzare un malware, un software malevolo, insomma una specie di virus, per poter effettuare le intercettazioni. È un procedimento che viene tollerato soltanto in presenza di alcune ipotesi di reato e non altre, ad esempio quella di associazioni criminali, così aveva ricordato la Cassazione. Questo non sarebbe però il caso per tutto quello che riguarda la vicenda di Consip. Ho tratto queste indicazioni da Repubblica, ma come vi ripeto le trovate un po' su tutti i giornali riassunte in dettaglio. E adesso è il momento di fermarsi ancora per qualche istante, perché come sapete al 45esimo minuto arrivano le notizie sul traffico. In primo piano. Buona giornata ancora per questa ultima parte della nostra rassegna stampa, della lettura dei giornali, sempre grazie a Carmelo Lauricella che mi accompagna in regia, e grazie naturalmente anche a tutti coloro che ci stanno scrivendo, e quindi sono anche all'ascolto in questa mattinata. Vi ricordo il numero come sempre 349-238-6666. Un ascoltatore mi critica giustamente perché ho utilizzato la formula piuttosto che come congiunzione, e dice: no, guardi che nella lingua italiana ha significato alternativo, lo so, ma purtroppo mi scappa e mi viene così di dire. Chiedo scusa, non sono così attento, specialmente saltabeccando da un giornale all'altro, ma grazie della attenzione con cui ci seguite, davvero fa molto piacere. Allora, torniamo sulle vicende citate dai giornali con maggiore evidenza, anche Avvenire naturalmente dà grande spazio dato sul prodotto interno lordo, che sia vera crescita è l'auspicio del titolo di Avvenire. Il prodotto interno lordo sale a più 1,5, agganciata all'Europa, il governo dice ora la priorità va per i giovani e la povertà. Ma Avvenire dà anche con maggiore evidenza rispetto ad altri quotidiani sulla sua prima pagina spazio alla giravolta di Trump dopo i fatti di Charlottesville. Per chi non fosse stato al corrente o magari in questi giorni di vacanza non ha seguito tutti gli avvenimenti seguiti alle vicende di Charlottesville, dei suprematisti bianchi con la morte di una attivista invece antisuprematista, insomma anti-estrema destra proprio Charlottesville, va detto che c'era stato prima un silenzio del presidente degli Stati Uniti, che peraltro ha tra i suoi sostenitori proprio queste aree di estrema destra. Poi c'era stata una condanna, diciamo, abbastanza decisa, e poi adesso c'è un'ulteriore posizione dicendo: beh, ma insomma, però lì hanno sbagliato tutte e due, la violenza è stata da entrambe le parti. e quindi colpevoli tutti quanti, e come sappiamo poi tutti colpevoli, nessun colpevole, la cosa ovviamente insomma non dà un ulteriore lato positivo al presidente americano, che non è nuovo, specialmente sui social network, a queste uscite, a queste sortite abbastanza discutibili. Questo Avvenire sceglie appunto, in questo differenziandosi dagli altri giornali, di dare spazio a questa correzione di rotta di Donald Trump. Passiamo invece alla Stampa, da dove possiamo trarre, proprio grazie a un titolo di prima pagina, un ulteriore sviluppo sulla vicenda dei migranti, delle organizzazioni non governative, ma questa volta il problema non viene dal Mediterraneo, ma viene invece dal Brennero. Minniti a Vienna chiede via i soldati dal Brennero. Che è successo? Perché dopo le minacce di qualche settimana fa, manderemo i soldati al Brennero, aveva detto l'Austria, per fermare l'invasione dei migranti, peraltro invasione che non risulta esserci perché le cifre sono assolutamente in diminuzione e gestibilissime probabilmente dalla presenza già consentita. Ebbene, l'Austria è passata alle vie di fatto, avevano minacciato in realtà anche l'invio di mezzi blindati, ma per ora hanno inviato 70 soldati per controllare i migranti. Il Viminale dice: atto immotivato, ci aspettiamo una retromarcia, una scelta sorprendente e ingiustificata, la situazione è assolutamente tranquilla, e Minniti avverte Vienna: così la cooperazione è a rischio, ci attendiamo una retromarcia. L'Austria sfida Roma, leggiamo dalle pagine interne della Stampa, 70 soldati al Brennero contro i migranti. L'ira del Viminale: scelta sorprendente e ingiustificata. Gentiloni che dice di nuovo alla Unione Europea più impegno, perché l'Italia già fa il massimo. L'Austria, scrive Letizia Tortello sulla Stampa, aumenta la pressione, manda 70 soldati al Brennero, la motivazione è quella di aiutare la polizia nei controlli subito dopo la frontiera con l'Italia, appunto, frontiera che resta aperta in base agli accordi di Schengen. Lo ha annunciato il comandante militare territoriale del Tirolo, Herbert Bauer, nel corso di un incontro a Innsbruck, e da lì poi anche le lamentele e le proteste del governo italiano. Ma per inquadrare questo invio di 70 soldati a ulteriormente presidiare il confine tra Italia e Austria, bisogna capire, come ricorda Alberto Simoni proprio sulla Stampa, che il 15 ottobre in Austria si vota, e allora sì, come sinteticamente descrive il titolo di questo corsivo di Alberto Simoni, sì, questo somiglia molto a una sceneggiata elettorale. Ecco, quello che però viene da pensare è che ormai l'argomento dei migranti, e che poi è una questione, come abbiamo avuto più volte occasione di dire e di notare, non è una questione di emergenza ma veramente epocale, come dice anche il ministro Minniti, in realtà venga più sfruttata per questioni elettorali dalle varie parti politiche piuttosto che affrontata. Ad esempio, magari una riflessione può venire proprio dalla Stampa, che nella pagina successiva a quella che vi ho descritto ha una intervista con Riccardo Gatti, capo dell'organizzazione non governativa spagnola Proactiva, che è stata sequestrata a Ferragosto dai guardacoste libici, e questa intervista fa capire come le tensioni nel Mediterraneo tra il codice di condotta che il nostro governo ha chiesto e ottenuto da diverse organizzazioni non governative, la presenza della Guardia Costiera libica che sta pure pattugliando le acque non solo immediatamente davanti alle coste libiche ma anche più oltre, già in acque internazionali, in un'area che viene definita di search and rescue, cioè di ricerca di salvataggio, insomma la presenza poi delle navi di Defend Europe, cioè l'imbarcazione anti-migranti dell'estrema destra, insomma in questo braccio di mare mediterraneo davvero le tensioni sono parecchie. Questo episodio, che viene poi riferito dall'intervista di Fabio Albanese al capo dell'ONG spagnola, ecco, ci fa capire come ci sia davvero un clima complicato tra diminuzioni, lo dicono i numeri degli sbarchi, pattugliamenti dell'una e delle altre parti e anche episodi che possono essere molto complicati, come queste minacce, volevano spararci, dice il capo dell'ONG spagnola, i guardacoste libici volevano spararci, si sono comportati come dei pirati. Questo sulla la stampa di oggi a proposito appunto delle ONG. Oh, il, tra l'altro sul giornale proprio Minniti, in un articolo di Gian Micalessin, si riportano alcune dichiarazioni che il ministro ha fatto a proposito dell'Unione Europea. Dice: in realtà volevano pagarci, l'Unione Europea voleva pagarci purché ci tenessimo i migranti. La loro proposta era di creare qui delle galere, non dei centri di identificazione, ma sostanzialmente delle galere da cui nessuno potesse uscire. Dice, in quei giorni del 27 e 28 giugno, quando 27 navi di tutta Europa scodellano sulle coste italiane 12.000 migranti, quello che per lui appunto è il D-Day, scrive, quel per il ministro Minniti è il D-Day, scrive Micalessin, l'Italia comprende che non può più sperare nella compassione dell'Unione Europea, deve trovare da sola la soluzione. E qui c'è il virgolettato di, attribuito al ministro, riportato da Micalessin: sapete cosa ci offrirono i nostri amici di Bruxelles dopo quelle giornate tragiche e tremende? Non soluzioni politiche, non ci tesero una mano, proposero di darci più soldi per creare nuovi hotspot. Insomma, l'importante non era fermare la marea di migranti, ma soltanto metterli in condizione di non muoverli dal nostro paese, fa capire il ministro. Perché non crediate mica che quei soldi ci venissero offerti per far star meglio i migranti o per garantire la loro integrazione. No, offrendoci quei soldi ci chiedevano di creare dei centri da cui i migranti non potessero uscire, dei centri di internamento, cioè delle vere e proprie galere, persino per i minori non accompagnati. Questo dal giornale, dall'articolo di Micalessin, che riporta appunto dei virgolettati del ministro Minniti. Oh, concludo per questi due minuti nemmeno scarsi che ho del programma per segnalarvi un tema assolutamente estivo: l'estate cafona. Ne parla Mattia Feltri sulla stampa di oggi, ne parlano diversi giornali, ci sono gli abituali, verrebbe da dire, comportamenti cretini, perché, o cafoni, sì, ma forse cafoni è un po' poco, perché qualcuno, ad esempio, leggo così un'antologia di questi gesti deplorevoli dell'estate, qualcuno ha versato un bidone intero di olio per motore nella in piazza Bocca delle Verità, nella Fontana dei Tritoni a Roma, così ha pensato bene di versarci, chissà perché, una latta di olio per motore. Una donna ha voluto fare il bagno seminuda nella vasca di Diana e Atteone nella Reggia di Caserta, e poi qualcuno invece ha deciso di rubarsi un po' di sabbia durante la notte nella spiaggia di Pudelli in Sardegna. Ecco, tutti comportamenti, come dire, cafoni, purtroppo ricorrenti d'estate, vengono segnalati qua e là da diversi giornali. Mattia Feltri dedica oggi il buongiorno, un buongiorno che però non faremo in tempo a leggere, perché per questa mattina la nostra rassegna stampa si conclude qui. Naturalmente continuate a seguirci, come sempre, tutte le notizie e gli aggiornamenti su Radio 24, sul nostro sito, sul sito del Sole 24 Ore. E a questo punto ancora una buona giornata a tutti. Grazie a Calmero Lauricella per l'assistenza in regia. La nostra rassegna stampa torna domani.